سر بخوی منظمه ما کاری و راجی به تندیا سرجنی افشدتا گوته سرجنی اما محاولت کنن سرلینن. Questa è l'organizzazione Sara. È anche un'associazione sociale. منظمه ما ام دوازده مؤسس تیدنن ما یعنی ایگم امپیرا بون مراکر. 12 donne hanno fondato l'associazione. Ora siamo in 25 e abbiamo tutte differenti conoscenze. Quindi anche differenti compiti, alcune lavorano a livello economico e altre a livello sociale. Il nostro lavoro consiste nell'aiutare le donne in un secondo momento, dopo che sono uscite dalle situazioni di violenza e hanno trovato delle soluzioni. Interveniamo a livello della formazione, le aiutiamo economicamente, il che non vuol dire che diamo loro dei soldi, ma le aiutiamo a migliorare la loro condizione economica. Interveniamo anche a livello di supporto psicologico. ودفرد شي ام خبري خستند كان ام پرورده تكليما بسازيه درجه هنا وقت يكيتياستار مجوا خوستات پرورده جمرچي كرن. Per noi è molto importante che le donne sappiano quali sono i loro diritti. Per fare bene il nostro lavoro siamo in contatto con le altre organizzazioni di donne e facciamo parte delle Yekiti Astar, il movimento delle donne in Rojava. Insieme abbiamo discusso su come aiutare le donne. Questo è il lavoro che facciamo, sostenere le donne dopo che sono uscite da situazioni di violenza. Tutte le organizzazioni che sono coinvolte in un caso di violenza cercano insieme una soluzione. Non vogliamo separare o frammentarci in differenti incontri. Tutte quelle coinvolte si incontrano, discutono il problema insieme alla donna e anche come organizzazioni, in modo da trovare una soluzione che sia a lungo termine. Quello che facciamo è anche organizzare dei luoghi dove le donne possano vendere delle cose che producono con il loro lavoro artigianale, in modo che possano venderle nei negozi, in modo da migliorare le loro condizioni economiche. Ovviamente possono anche sostenere la nostra organizzazione, perché non riceviamo soldi dal cantone. Il nostro lavoro è anche politico. Vi faccio un esempio. L'anno scorso è stata uccisa una donna ad Amudi. Era incinta. È stata ammazzata lei, ma anche il futuro figlio o figlia. Come organizzazione di donne, e questo è il nostro lavoro politico, siamo andate alla Corte Popolare per chiedere giustizia per la donna, ma anche per il futuro figlio o figlia. Si trattava di un doppio omicidio. All'inizio non volevano aprire due casi, così siamo andate in 15 donne. Facciamo questo tipo di lavoro pubblico e lo diffondiamo tramite Facebook, perché è necessario che sia conosciuto, ma andiamo anche a discutere con la Corte Popolare. È necessario mostrare ovunque che non accettiamo nessun passo indietro nei diritti delle donne. I diritti delle donne devono essere fondati sulla libertà delle donne e le leggi vanno cambiate. Il caso precedente mostra che le leggi non sono basate sui diritti delle donne. Comunque stiamo costruendo un nuovo sistema di leggi, come avete visto parlando con le compagne della Casa delle Donne. Noi sosteniamo il loro lavoro, che è necessario per costruire un nuovo sistema di leggi, che sia basato sull'eguaglianza e la libertà dei generi. پر خوش بو گواگ ام جن انو روژک جمر هات خصصاندن ام جی وک ای روژلاتان آوین و جیهان تاوی یعنی پر خوش بو گوام درکتن انو کسک زانب ما فیما و او روژمر هات حددان ام درکتن ام جی ام مشکل دار خص. È appena passato il 25 novembre, che per noi è molto importante, perché le donne, noi e le donne di tutto il mondo, si sollevino contro la violenza degli uomini e combattano fino ad ottenere tutto, anche ogni più piccolo diritto delle donne. Quindi per noi il 25 novembre è un giorno speciale, perché possiamo esprimere i sentimenti e il lavoro che stiamo portando avanti. Un altro lavoro che facciamo è quello di monitorare la situazione delle violenze sulle donne attraverso una ricerca statistica che facciamo ogni 6 mesi. Andiamo in ogni parte dei 3 cantoni del Rojava e raccogliamo informazioni per capire se il nostro lavoro sta portando a dei risultati e sta avendo successo oppure no, e per capire come le statistiche sulla violenza sulle donne sono cambiate per quanto riguarda le violenze, gli stupri, le uccisioni e ogni forma di abuso sulle donne. La compagna Nura si occupa della diffusione del nostro lavoro, perché come organizzazione di donne, da una parte è necessario rendere pubbliche le conoscenze che abbiamo sulla violenza sulle donne, e d'altra parte è necessario rendere pubblico il lavoro che facciamo per contrastarla, in modo che la gente sappia che ci sono attività contro la violenza. Lo devono sapere tutti, non solo le organizzazioni di donne. Il mio nome è Nacha Amin. Con l'inizio della rivoluzione, le donne che lavorano qui hanno capito che è necessario sollevarsi, educare noi stesse e prepararci ad essere parte della lotta, in ogni modo. Quindi, da un lato, fare autoformazione in modo che possiamo fare questo lavoro, e dall'altro lato costruire una conoscenza su cosa è l'oppressione delle donne, cosa è il sistema patriarcale, cosa è l'oppressione che abbiamo appreso dal regime siriano. Questa è la ragione per cui lavoro qui, perché voglio lottare contro queste oppressioni. اهداف مت کار بخوینه از کار مینا که اتیش دی مرد در باس بونه اشتر در مثلا اوگاوا جنی هاتن کشتن جنی راستی لیدانی هاتن ای فروت. Io adesso vorrei raccontarvi l'ultima ricerca statistica che abbiamo fatto. Ho qui il documento. Abbiamo appena finito una rilevazione in tutto il Rojava e vorremmo condividere i risultati con voi. Facciamo il lavoro di ricerca in tutto il Rojava, per cui ci sono donne che collaborano con noi anche nei cantoni di Afrin e di Kobane. Quest'anno abbiamo fatto un questionario e delle rilevazioni statistiche sugli omicidi delle donne, le violenze, i divorzi, la vendita delle donne e anche tutta una serie di comportamenti non etici nei confronti delle donne. L'ammontare delle violenze che sono state commesse nel periodo che abbiamo analizzato, gli ultimi 6 mesi appunto, è raddoppiato a causa della guerra e delle difficili condizioni di vita. Come organizzazione di Donne Sara vediamo come cause dell'aumento delle violenze la mancanza di conoscenza sulla violenza sulle donne, ma anche la guerra interna, soprattutto gli attacchi da parte di ISIS e i suoi effetti a livello psicologico, che hanno diffuso un'atmosfera di violenza ovunque nella società. Nel 2013 sono state uccise 36 donne, soprattutto per questioni d'onore. Nei primi 6 mesi del 2014 sono state uccise 17 donne. Quest'anno sono state 1888 le violenze domestiche, quasi 2000 quindi, di cui 5 donne sono state minacciate di essere uccise, 1333 sono state abbandonate dai mariti in cattive condizioni economiche. Di queste, grazie alla nuova legge sul divorzio, 45 sono riuscite ad ottenere l'affidamento delle figlie o dei figli. 40 donne sono state usate come prostitute, 36 donne sono state trafficate in altri paesi, vendute dalla famiglia. 16 donne sono state obbligate a rubare in altre case. Per le donne è più facile entrare nelle case delle altre persone. Un esempio è quello di un uomo che ha spinto la moglie a rubare per comprare le medicine per lei, ma poi ha speso tutti i soldi per bere. Un altro esempio è un ragazzo che è scappato con la dote che lei aveva rubato alla sua famiglia. Ci sono anche molti casi di violenza economica, ci sono donne che sono costrette a non lavorare, donne che sono costrette a dare tutti i soldi che guadagnano alla famiglia.